Ogni riferimento a situazioni e persone è puramente voluto. I fatti descritti questa sera sono reali e tratti dalla cronaca. Italia Numbers. 47,06 latitudine massima nord. 35,30 latitudine massima sud. 5,54 longitudine massima ovest. 6,04 longitudine massima est. 301.000 km quadrati di territorio. 7.500 km di coste. 68.000 km quadrati di foreste. 41,6% di colline. 35,2% di montagne. 23,2% di pianure. 4 mari. 47 laghi. 234 fiumi. 4 vulcani attivi. 4.560 discariche abusive. 16.000 km di ferrovie. 172.000 km di strade. 9 aeroporti, 1213 mulattiere, 20 regioni, 107 province, 810 comuni, 4 grandi associazioni a delinquere, 1215 latitanti, 220 famiglie camorristiche, 59,9 milioni di abitanti, 199 abitanti per chilometro quadrato, 30,7% lavora nell'industria, 4,2% lavora in agricoltura, 65,1% lavora nel terziario, 8% non lavora proprio, 12% sotto la soglia di povertà, 205.800 possessori di panfili ultralusso, 1,2% analfabeti, 9,8% obesi, 22,7% fumatori, 9% alcolizzati, 6% consumatori di psicofarmaci, 700.000 consumatori di cocaina, 12 senatori a vita, 18.383.000 pensionati, 4.875.000 invalidi, 1.042.000 falsi invalidi, 34.216 ispettori contro i falsi invalidi, 142 zoosafari, 800.457 cacciatori, 12.547 concorsi pubblici l'anno, 5.712 concorsi di bellezza, 18 milioni di biglietti della lotteria, 16 milioni di giocate all'otto, Enalotto e Super Enalotto, 15 milioni di gratta e vinci, 9.547 strade, piazze, larghi, corsi o viali intitolati a Giuseppe Garibaldi, 9.312 strade, piazze, larghi, corsi o viali intitolati a Giuseppe Verdi, 7.423 strade, piazze, larghi, corsi o viali intitolati a Giuseppe Mazzini, 4.235 strade, piazze, larghi, corsi o viali intitolati a Giuseppe San Giuseppe, 8.798 strade, piazze, larghi, corsi o viali intitolate a Camillo Conte di Cavour, 8.694 strade, piazze, larghi, corsi o viali intitolati a Re Vittorio Emanuele II, 6.324 strade, piazze, larghi, corsi o viali intitolate alla Regina Margherita, 32 strade, piazze, larghi, corsi o viali intitolate al Principe Antonio De Curtis, detto Totò, 31.676.617 tonnellate di rifiuti all'anno, 897 giorni di attesa media per un processo, 1.515.000 processi per furto, 196 processi per sequestro di persone, 301.428 processi per frodi e truffe, 5 milioni di processi per violenze sessuali, 1.324 processi di beatificazione, 112.600 carabinieri, 105.324 poliziotti, 1.839 vicequestori, 19.230 ispettori, 201.800 arruolati nelle forze armate, 25.915 ufficiali, 64.888 marescialli, 2.500 casi all'anno di nonnismo, 624.000 ricette mediche all'anno, 855 rifugi alpini, 17 raffinerie, 376 ostelli della gioventù, 7.446 tonnellate di concimi tossici, 15 partiti comunisti, 60 edizioni del Festival di Sanremo, 1.861.000 tonnellate di patate, 7.719.000 tonnellate di pomodori, 481.000 di cavolfiori, 439.000 di cime di rapa, 4.366.000 di olive, 1.735.000 di pesche nettarine, 2.411 campeggi, 32.611 preti, 20.768 monache frati, 26.000 parrocchie, 9 milioni clienti abituali di prostitute, 22.000 maghi, santoni e guaritori, 1 milione di fedeli musulmani, 400.000 fedeli protestanti, 100.000 fedeli ortodossi, 230.000 fedeli testimoni di Geova, 25.000 fedeli valdesi, 30.000 fedeli ebrei, 2 milioni di fedeli fan di Laura Pausini, 8.883.000 lavatrici, 3.546.000 televisori, 7.987.000 frigoriferi, 10.432 supermercati, outlet e cash and carry, 2 miliardi di euro l'anno per la pace del mondo, 4 4 miliardi di euro l'anno fatturato per vendita di armi, 34 milioni tifosi da stadio, 723 polisportive calcio dilettanti, 35 milioni 680 mila automobili, 624 mila 330 auto blu, 4 milioni 700 mila trattori agricoli, 370 golf club, 59 circhi con bestie feroci, 14 mila greggi di pecore sarde, 30 mila 502 sportelli bancari, 113 spiagge e bandiera blu, 31 associazioni per la difesa del francobollo. Italia Tourism. Toc toc. Poi silenzio. Di nuovo. Toc toc. Alle 6 del mattino qualcuno bussa. In mezzo alla strada. Così, ad un tratto, dal nulla, dal niente. Toc toc. Un rumore sordo, metallico. Decisamente metallico. È così, più che un toc toc è un tum tum. Tum tum. Poi silenzio e poi di nuovo. Il tum tum risuona nel silenzio della via, perché ancora la strada è deserta, nebbiosa, umida, con quel senso strano di quiete prima della tempesta che hanno la mattina certe strade di Milano. Tum tum, auto parcheggiate. Tum tum, la carcassa di una bicicletta allucchettata ad uno sfiato del gas. Tum tum, le insegne spente per lo più, tranne quella di un kebab che forse guasta e lampeggia frizzando come ineno in agonia nella corsia di un ospedale. Tum tum, manifesti pubblicitari in ordine sparso. Tum tum, scuola rapida di spagnolo. Tum tum, inaugurazione con DJ session del New Milano Sushi Bar. Tum tum, tavola rotonda sull'ecosostenibilità nella Brianza del terzo millennio. Tum tum, volantini a terra malamente fotocopiati di una palestra che in 5 giorni ti fa perdere peso soddisfatti o rimborzati. Rimborzate scritto con la Z, buon presagio. Tum tum, sui tergi cristalli delle auto in sosta deplian su corsi di kung fu per la difesa personale. Tum, tum, fermata del bus. Il palo è coperto di adesivi incomprensibili. Ce ne sono 5 o 6 con un maiale in bianco e nero senza scritte. Su altri la lettera F, così, da sola. Su altri ancora, attaccati uno sull'altro, sta scritto solo reagire alla narcosi. Chi capisce è bravo. Sopra gli adesivi svetta un foglio di quaderno appeso con lo scotch. Affittasi camera con lavatrice, prezzo quasi gratis, in doppia lingua, italiano e cinese. Se vuoi il numero telefonico lo stacchi direttamente dal foglietto, ma finora nessuno l'ha fatto. Colpa del quasi? Tum, tum! Il bussare persiste. Eppure intorno non c'è traccia di fauna umana. Se ne accorge per primo uno spazzino di colore. Sono scesi in 2 dalla macchinetta lavastrade che con la sua sirena arancione dipinge il grigiume, neanche fosse Van Gogh, e con il bip bip della retromarcia fa da sveglia mattutina in tutto l'isolato fra via MacMahon e via Dupré. Bip bip, tum, tum! Bip bip, tum, tum! Il collega spazzino non sente nulla, ha le cuffie dell'iPod sotto il berretto, ma l'altro no. L'altro ci fa caso e come. Si guarda attorno, scruta il paesaggio a 360 gradi. Nessuna forma di vita, se non un arabo barbuto, sosia di Al-Zawahiri, che disciplinato aspetta in piedi ad un semaforo sul quale svetta peraltro una freccia di cartone battesimo di Pamela. Tum, tum! È a questo punto che lo spazzino, a cui difetta il diminutivo dato il 1,95 m di stazza keniota, abbassa lo sguardo. Il bussare viene da sotto. Da sotto i suoi piedi fissa perplesso una botola di ferro di ingresso alla rete fognaria. Tum, tum! Indubbiamente. Viene da lì. Tum, tum! Necessario agire. Scartata con coraggio l'ipotesi Godzilla, abbandona la scopa sull'asfalto e con scatto operativo degno della migliore tradizione lombarda si inginocchia. Con fatica solleva la botola, spalanca l'uscita, investito da un fiotto di olezzi fognari e lì, in quel preciso istante, ecco uscire in fila indiana da sottoterra, rispettosi, salutando, sorridendo, un po' gelati, non gradevoli all'olfatto, infinitamente grati allo spazzino, una fila di cinesi. La questura dirà 28, di cui 12 clandestini, età compresa fra i 40 anni e i 3 mesi, stipati come sarde in un tugurio sotterraneo suddiviso in cunicoli e in deliziosi loculi separati in cartongesso, il cui affitto varia dai 100 ai 150 euro mensili, riscossi senza deroghe da milanesi con il pallino per l'attività alberghiera. L'hotel offriva 60 posti letto consistenti in 25 materassi buttati a terra, una cucina con bombola a gas, 3 o 4 lampadine con cavi allacciati alla rete elettrica. Superflui bagni, essendo nelle fogne. Acqua corrente attingibile dagli scoli piovani. Impianto di aerazione affidato alle suddette botole, utilizzabili anche come dirette uscite nel caso di ostruzione dell'ingresso principale, ovvero un'atletica scala a pioli calata dal seminterrato appartamento del gestore. Unico rammarico, l'assenza della struttura dalle guide turistiche. Incomprensibile, dal momento che Milano, soprattutto nei giorni di fiera, lamenta il tutto esaurito dei posti letto. Ladies and gentlemen, Italia Comics. New York all'Uomo Ragno. Gotham City a Batman. Smallville a Superman. Los Angeles a Wonder Woman. E Napoli. Napoli a Entomo. Entomo, the Insect Man. Non è uno scherzo, eh? Non lo è affatto. Entomo non è un'invenzione di fumetti. Esiste, è vero, reale, in carne ed ossa. Tutto è cominciato circa un anno fa. Quartieri spagnoli, cuore di Napoli, le 6 del pomeriggio. Il caldo è asfissiante. Una viuzza stretta in discesa. In tutto 7 metri di larghezza comprensivi di... Circolazione in doppio senso. Auto in sosta. Impalcature. 2 tombini transennati. Sedi impagliate per vecchi obesi. Tavolini di un bar. Casse di frutta. La carcassa di un bidone. Un cane moribondo. Un gatto addormentato se non già trapassato. Una fermata del bus. 2 cartelloni da pubblicità. 6 bambini appostati in bicicletta. Un tabernacolo. Una fontana. Il mezzo busto di un ignoto eccesso poeta estinto riconoscente la città cui posi. Il caldo è asfissiante. Catalogo assortito di tolfatti partenopei. Pesce ad essiccare. Tanfo di marcio. Tubo di scappamento. Sugo sul fuoco. Incenso da chiesa. Profumo esagerato di un passante estroso. Olio fritto del secolo passato. Olezzi vari imprecisati di natura fisiologica. Il caldo è asfissiante. Rumori di ogni tipo si affollano simultanei. Tutto il repertorio di Gigi D'Alessio. Il fatto del nuovo shampoo da un televisore in terrazza. Litania tutta birra da una radio religiosa. Nocciolamento di una rosaria, una eterna persiana. Borbottio di pentole e casseruole. Inchiodate. Accelerate. Frenate. Scommate. Qui domani tutti i timbri e toni. Accendi di quei rantoli. Risate. Lamenti. Sciacquoni. Dichiarazioni folli d'olio, d'odio, amore ed amicizia. Conferenze pubbliche sul senso delle cose. Versi animali più o meno stessi. Spattere di porte. Cicolini di portoni. Scorrere di saracinesche. Risacquo di lavatrici. Ad un tratto, dal fondo del vicolo irrompe sgommando un motorino pirata. Marca irriconoscibile, agglomerato di dozzine di pezzi di ricambio. Marmitta più che truccata, freni inesistenti. Targa interamente nascosta da un provvidenziale adesivo del Napoli Calcio talmente grande da sembrare una tovaglia. Alla guida del suddetto, un ignoto energumeno. Calvo. Dragonescamente tatuato. Con 6 orecchini per lobo. Decisamente sovrappeso, come dichiara la massa di adipe che straborda dai lati del sedile. Canottiera striminzita fra i bicipiti sudati. Colla non è ora con crocifisso annesso. Pantaloni corti avvolti come guaine sulle cosce suine. Ciabatte da mare color verde prugna. Il cinghialotto motorizzato sfreccia per il vicolo cantando a squarciagola a velocità quadrupla del consentito. Punta una preda in fondo alla via. Accelera in picchiata tirando la manopola del gas con un rombo di motore udibile dall'Irlanda. E sempre cantando a squarciagola si sbilancia atletico con tutto l'avambraccio in fuori sfiorando il brivido del disarcionamento. Strappa la borsetta di una vecchia mezzalessa impalata alla fermata. In un secondo la vecchia grida, ah, sviene, buh! Chi se ne frega? Per una frazione di secondo sbanda, perde una ciabatta, si riprende, riequilibra il peso, riaccelera, svolta piegando in una strada secondaria e vittorioso ricanterebbe di nuovo il ritornello se non fosse che... Lì davanti, dietro l'angolo, in mezzo alla strada, lui, in piedi, rigido, fermo come uno scoglio, braccia conserte, gambe parallele, lui mantello sulle spalle fermato con un laccio al collo, maschera sul viso ritagliata sugli occhi, sulla tuta aderente che fa un po' pigiama porta cucita si vedono i fili, una E gigantesca verde e gialla con tanto di saetta. Si fa silenzio. Perfino le lavatrici smettono. L'energumeno col ciclomotore in penna lo sfida, poi accelerandolo attacca da un lato, ma lui è un supereroe. Niente lo sorprende, niente lo coglie di sorpresa. In un battibaleno con mossa veloce fulminea. Da insetto qual è? Getta a terra una manciata di chiodi che fanno scoppiare le gomme. Il barilotto tatuato si schianta sull'asfalto, perde l'altra ciabatta. La borsetta vola avanti, illesa ai piedi dell'eroe. Dite a tutti che mi chiamo Entomo. Sono le sue uniche parole, prima di riconsegnare il mal tolto alla vecchia. Dite a tutti che mi chiamo Entomo. Che carattere, che tempra, che sguardo penetrante. Peccato per quell'alito che onestamente sa un po' d'aglio, ma via, è un dettaglio. Da quel giorno la domanda è solo una. Chi è? Da dove viene? Nessuno l'ha mai visto a viso nudo il giustiziere mascherato. Ma sono mesi ormai che nulla gli sfugge. Pattuglia le strade. Precede le volanti. Mette in fuga i delinquenti. La gente di Napoli lo ama. Ha perfino una pagina su internet dove gli tocca di difendersi da accuse indegne per un supereroe. Non sono un mitomane. Un mitomane. E dire che c'ha anche dei superpoteri. Lo dice lui stesso. Ha una specie di preveggenza. Legge negli occhi delle persone quel che stanno per fare. Se non è un superpotere questo. Lui lo chiama il parallelogrammo. La sua arma per sconfiggere i cattivi. Dice che è tipico degli insetti. Il parallelogrammo. Un insetto preveggente salva Napoli. I giornali esteri ci hanno già scritto sopra. Come Super Mario Gomez che a Città del Messico combatte per i poveri. A new hero whose name is Entomo wins the war against criminality. Entomo alla recherche d'una nouvelle Napoli. Una soddisfazione. Siamo al passo con il resto del mondo. Circa la vecchietta che, grazie a Entomo, riebbe la borzina, ha fatto voto a tutti i santi che d'ora innanzi, per rispetto, non spenderà più nemmeno un centesimo in insetticida. Pronto, chi c'è in linea? Non sento nessuno, passatemi la chiamata. Perché in ascolto sono io, sono la signora Speranza. Accetto chiamate da tutta Italia, anche fuori dalla Puglia. Prefisso 099 e poi i numeri che scorrono qui in basso. Rispondono le nostre ragazze e poi vi passano in diretta. Pronto, ci stai? Pronto. Eccoti, chi sei? Mi dici il nome e da che parte d'Italia mi chiami? Italo da Taranto. Ecco, Italo, mi chiami da vicino, da Taranto. Infatti è vero, perché la tua energia, infatti la sento forte. La tua anima, soprattutto la tua speranza, che quella deve essere sempre viva, mi raccomando. Tu la tieni, Italo, la speranza? Ci provo. Ti voglio sentire carico di fiducia, Italo, voglio che mi emani nella cornetta la tua speranza. Mo dimmi, Italo, per quale ragione mi stai chiamando? Dimmi cos'è che la signora Speranza ti può aiutare. Cosa può fare la signora Speranza per la tua anima? Cosa c'è che ti agita dentro, Italo, che infatti, ecco, ti dà l'inquietudine? Io mi trovo... Sì? In una situazione... Sì, parla apertamente. Confidati con la signora Speranza che sta qui per te. Ricordati, Italo, che così come io aiuto gli altri che mi chiamano da tutta Italia, anche fuori dalla Puglia, prefisso 099, i numeri che scorrono qui in basso, così posso anche aiutare te, Italo, a risolvere, ecco, ad affrontare questo tuo momento di vita speciale che ti dà l'inquietudine, ma non ti toglie però, Italo, la speranza, vero? La speranza non muore mai, è sempre viva, ci dà il sorriso. Dimmi, Italo, ti ascolto, ti seguo quello che mi dici. Io ho 50 anni. Sì? E ho partecipato a un concorso pubblico. Sì? Quando, ecco, scusa, quando ti succedeva questo tuo concorso pubblico, Italo? Un anno fa. Ecco, scusa, Italo, dimmi, mo, che cosa si vingeva in questo tuo concorso pubblico che hai fatto un anno fa? Mi occorre per avere, ecco, tutto chiaro, devo capire, Italo, meglio l'inquietudine, mi senti? Non ti distrarre, Italo, non sento più la tua anima, la tua speranza. Il concorso era per un posto da dirigente. Sì? Dirigente al comune. Ecco, un posto da dirigente al comune per Italo, un posto importante che infatti ci dà l'inquietudine a Italo. Dirigente dell'ufficio urbanistico. Ecco, cosa sarebbe nel dettaglio, Italo, mio occorre sapere? Piani strutturali, aree edificabili, pianificazione di strade, ponti. Ecco, bene, Italo, ma so che al tuo concorso tu, Italo, ci volevi vincere il posto da dirigente, infatti per aiutarti posso già guardare, ecco, le carte, i tarocchi, e vedo che tu, Italo, al momento subisci questa energia negativa, questa inquietudine, perché tu in effetti al momento, mi dicono i tarocchi, mi dispiace, Italo, ma tu non sei il vincitore del dirigente urbanistico delle strade e dei ponti di questo tuo concorso pubblico di un anno fa. No. No, Italo, non lo sei. Ecco. Non lo sei, Italo, non sei l'urbanistica e la dirigenza, no. Brutta notizia. No, Italo, guardami negli occhi. Non ti abbattere, Italo. Non sento la tua speranza, non la sento più. Perché come io, la signora Speranza, dico sempre a tutti quelli che mi chiamano da tutta Italia, anche fuori dalla Puglia, prefisso 099 e poi i numeri che scorrono qui in basso, tu puoi, se vuoi, rassegnarti, oppure, Italo, credere nella speranza che tu, sento che hai, di poter diventare dirigente strade e ponti. E se ci credi, io posso, Italo, aiutarti. aiutarti a rafforzare la speranza con un talismano o con un amuleto della signora Speranza, Italo. Oppure anche se vuoi, se puoi, Italo, io posso farti una pozione magica della speranza, di effetto sicuro, Italo, che dentro ci stanno elementi naturali della speranza, come quelli che mi chiamano da tutta Italia, anche fuori dalla Puglia, prefisso 099 e poi i numeri che scorrono qui in basso. Nella pozione ci metto certi elementi fortissimi, attivi, che ti creano un alone, Italo, di positività intorno, una potenza unitaria benigna per l'urbanistica delle strade e dei ponti. E con questo succede che la tua speranza diventa talmente forte che si crea a tutti i tuoi avversari un gambo negativo fortemente maligno, per cui loro, anche se vincono, Italo, loro rinunciano al posto di dirigente, o se non rinunciano, insomma, loro subiscano fatti improvvisi, incidenti, cose altre, Italo, per cui loro lasciano libero il posto delle strade e dei ponti. Questo rafforzamento di speranza chiaramente costa di più, Italo, costa molto, perché tu chiedi, Italo, alla signora Speranza di dedicare tutta la sua energia, la sua anima, alla dirigenza tua delle strade e dei ponti, e questo toglie tempo, spazio agli altri. Che mi dici? Ma io già 3 anni fa feci questa pozione. Sì? Tu facesti il rafforzamento della speranza? Per l'altro concorso, quello del bando europeo. E hai fatto bene a dirmi questo. Vuol dire che certe volte occorre, Italo, per cose importanti come la dirigenza delle strade e dei ponti, raddoppiare la pozione, sommare quella di 3 anni fa e quella di ora, Italo, di adesso, per avere una speranza proprio totale. Ma io già ne feci altre 3 prima. Come dici, Italo? Ora sarebbe la 4ª. Ecco, Italo, questo è grave, Italo. La prima per il settore innovazione informatica. Ma perché io non ho influenza sui computer, Italo? Solo gli umani, le anime. I computer non hanno la speranza. La 2ª per l'INPS, poi la nettezza urbana. Ma io, ma però il fatto è che ti sento abbattuto, Italo. Ti sento senza più la speranza, senza più il domani, vero, Italo? Vero che ti senti dentro senza più sorriso? Sto sempre in fondo graduatorio. Sì, ma la speranza, rispondimi, la tieni ancora? Se ti dico che sto sempre in fondo... Ma mi fai arrabbiare. Tieni la speranza o no? Sto al 94esimo posto da 10 anni. Sì o no, Italo? No. E io quante? Quante? Quante volte ve lo devo dire che io non posso fare niente con chi non tiene dentro la speranza? Non mi chiamate! Non vi voglio! Via, via, via! Non vi voglio! Mi buttate addosso la negatività, mi fate male, siete cattivi, cattivi! Ti saluto, Italo! Ma io... Non chiamarmi più, Italo! Pronto? Basta, Italo! Vattene, Italo! Un attimo, io voglio... Che vuoi da me? Che vuoi? Muori, Italo! Muori! Pronto? Toglietemi, Italo! Non voglio sentirlo più! Passatemi un'altra chiamata, forza! Perché in ascolto sono io, sono la signora Speranza. Accetto chiamate da tutta Italia, anche fuori dalla Puglia, prefisso 099 e poi i numeri che scorrono qui in basso. Ciao, chi sei? Ingiancia, corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia, siamo pronti. Scia di luci e di colori e di scritte e di insegne. Continuata a chilometri. Al mio fianco. Lungo la strada. Destra e sinistra. Di qua e di là. Da ogni parte giro il viso. Di qua e di là. Intermittenza gialla, rossa, verde e blu. Altoparlanti. Musica, ognuno la sua. Il suo inno, il suo jingle, che più semplice è, più si ricorda. Scritte gigantesche. E marchi. E loghi. E stendardi. E mongolfiere. Di qua e di là. La distesa stroboscopica degli outlet. Di qua e di là. Come una morsa. Continua. A perdita d'occhio. Di qua e di là. Praticamente. Ininterrotta. Certo, è straordinario. Dirò di più, apocalittico. Meraviglioso, questo Veneto di vetro e lacca, tutto plastica e tubi di neon. Lungo la Serenissima e poi via fra Padova, Sandonà e il passante, un'indigestione di iper, super, mega e giù, capannoni, magazzini. Compra, acquista, vieni, entra. E luce, colori, suoni, musichette. Compra, acquista, vieni, entra. E luce, colori, suoni, musichette. Compra, acquista, vieni, entra. E luce, colori, suoni, proliferazione senza fine. Una giungla. Un labirinto. Un dedalo. C'è di tutto, non manca niente. Dalle scarpe al gli occhiali, dalla nautica agli autosaloni, condizionatori, elettrodomestici, casalinghi, tutto per lobby, erboristerie, cellulari, arredamento, disconto per tutti i prezzi, giardinaggio, biciclette, sport 2000, prêt-à-porter, self-service, shop drive, multiplex, multisala, sexy shop, moda giovani, moda bimbo, moda donna, moda uomo, moda cane, moda gatto, tutto questo d'altro ancora, altro elevato al cubo. Che città è questa? Impossibile rispondere. Perché ormai non c'è più confine fra una città e l'altra. Straboccano. Si sommano. Si chiamano. Si attaccano. Si intrecciano. Con un'unica palude tutta uguale. Colorata, si capisce, full color, technicolor. Un'unica vetrina lunga chilometri dove si sprecano gli iper, i super, i mega. Di ogni forma e tipo e architettura. Legno e ferro, quadrilateri e rotondi, triangolari, romboidali, poligoni complessi tetradimensionali. Slanciati verso l'alto, spalmati a terra, sopra elevati o semi-interrati, stile fantascienza o stile antico ma rifatto con design. Portali, portoni, porticati. Arcate concave e convesse. Vetrate di grandezza sorprendente. Pinnacoli, torrioni, torrette. Ascensori esterni illuminati da astronavi. Tettoie avveniristiche d'acciaio ultraleggero. Ingressi megalattici che inghiottono voraci migliaia di carrelli nella nebbia grigia dei sabati pomeriggio. E ancora gradinate, scaloni, scalette, navate da chiesa, guglie da basilica, aiuole d'erba finta, cactus, abeti sintetici, palme di gesso, piante sempreverdi che altrimenti fa tristezza, piante con fiori, può darsi carnivore. E uno stuolo di leoni di San Marco fedelmente riprodotti in vetro resina, pronti a sbranarti se esci a mani vuote. Luci, colori, suoni, musichette! Compra, acquista, vieni, entra! Compra, acquista, compra, vieni, entra! Compra, acquista, vieni, entra! Compra, acquista, vieni, entra! Compra, acquista, vieni, entra! Compra, acquista, vieni, entra! Compra, acquista, vieni, entra! Vieni, acquista, compra, acquista, vieni, entra! Compra, acquista, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, entra! Ammiro questa sovrapposizione. Ingorda. Bestioni sempre più grossi, sempre più grassi, proporzionali senza dubbio ai compratori, affiancati l'uno all'altro, separati solo dai reciproci parcheggi, strabordanti a loro volta di macchine in entrata, macchine in uscita, frecce lampeggianti, sportelli aperti, spalancati per inghiottire pure loro sacchi, zeppi, pacchi, pacchetti, carrelli, montagne, iceberg, interi continenti d'offerte ed offertissime, iper, super, mega, stra, occasioni di raccolto punti da sorteggio, da estrazione o bonus card, sei il milionesimo cliente! Praterie intere di macchine in sosta! Processioni infinite di macchine in coda! Ogni macchina almeno un cliente! Ogni cliente almeno uno scontrino! Ogni scontrino almeno un prodotto! Ogni prodotto almeno un fornitore! Ogni fornitore almeno un camion! Praterie intere di camion in sosta! Processioni infinite di camion in coda! L'umanità si divide in clienti e venditori! Entrambi in fila! Li contemplo di qua e di là, sotto ipnosi per un piccolo leone di San Marco versione cartoni animati che da un colossale maxi schermo strizza l'occhio e dice: facciamo affari? Resto a fissarlo, sempre uguale. Facciamo affari? Facciamo affari? Facciamo affari? Facciamo affari? Facciamo affari? Facciamo affari? Facciamo affari? Facciamo affari? Sei uno di noi. Facciamo affari? Italia. Kamikaze. Facciamo affari. Facciamo affari. Sei uno di noi. Facciamo affari. Facciamo affari. Facciamo affari. Sei uno di noi. Le scarpe mi vanno troppo strette. E non poco. Dure come una tortura. Anche 50 anni fa, uno dei pochi lampi di memoria alle scarpe strette del matrimonio. Un passo dopo l'altro, in discesa, sui gradini del più ripido dei Carugi, quasi a picco contro il mare livido di Genova. Il sole invisibile, dietro un cielo bianco. Decisamente freddo. Quel freddo genovese da montagna con l'assurdo del mare che ti entra nel sangue come un'endovena e scolpisce da dentro con colpi di scalpello. Aveva messo il vestito migliore, quello di 50 anni fa del matrimonio. Grigio scuro, cravatta fuori moda, una fotografia in movimento. Solo la sciarpa era nuova di zecca, lana calda, la più calda. Vista e presa a un mercato il giorno prima su un banco che vendeva sciarpe, guanti, passamontagna, berretti. Pagata una sciocchezza. Eppure, o la sciarpa o il pranzo. E saltò il pranzo. L'equilibrio del portafoglio, sottilissimo. Un piccolo errore resta vuoto prima del dovuto. L'ultimo mese era riuscito ad arrivare alla pensione dopo con 11 euro ancora in tasca. 11 euro e 43 centesimi, degno di nota. Era bastato abolire un lusso, tutto qui. Quel piatto di prosciutto due volte al mese. Le scarpe mi vanno troppo strette. Continuava a dirselo, pentendosi di aver messo quelle, vecchie, strette, però, beh sì, eleganti. La marca famosa è inglese, ma non si sforzò nemmeno di ricordarla, l'inglese lo odiava. Tanto più ora che dappertutto, televisioni e giornali, tutti infilavano ogni tre parole un suono strano inglese e chi se ne frega degli ultrasettantenni come lui. Pensava con insistenza ancora alle scarpe strette, mentre un passo dopo l'altro procedeva nonostante il vento fra gli angoli delle case vecchie a precipizio sul porto antico come una casba di sbandati, preti, poliziotti, uomini in carriere, prostitute tante. Le scarpe mi vanno troppo strette. Fu l'ultimo pensiero, prima di fermarsi davanti all'insegna luminosa della banca. Lo slogan recitava: sei uno di noi. Sorrise, perché per un attimo si sentì uno di loro, o meglio, uno di qualcuno. Si riflesse sul vetro della banca, imbustato com'era in quell'abito da matrimonio di 50 anni or sono. E si vide così ridicolo. Come succede sì a volte quando all'improvviso, per una piccola, minima, impercettibile frazione di secondo, ti guardi dall'esterno, con occhi tuoi, ma al tempo stesso, che mistero, altrui. Fu lì per andarsene, poi prese un respiro, il più forte che poteva. S'era venuto fin lì con quel freddo, se si era messo quell'abito e le scarpe strette, vuol dire che era necessario. Entrò. La moquette era perfettamente pettinata. Colore del mare. Illuminazione diffusa. In 5 o 6 fioriere piccole palme nane. In un angolo sedeva mastodontica, una montagna di muscoli in divisa d'ordinanza, armata di pistola, con un grugno da Doberman senza osso. Parole in inglese, intere frasi stavano stampate ovunque. Si affacciò ad un ufficio, con la porta scorrevole di vetro. La scritta «Sei uno di noi» dominava dalle pareti ovunque. Ed essendo uno di loro, lo fecero sedere. Essendo uno di loro, gli offrirono un vassoietto di noccioline. Essendo uno di loro, lo ascoltarono col sorriso. Essendo uno di loro, glielo dissero senza cattiveria, che nessuno darebbe a un ultrasettantenne un mutuo senza garanzie. Essendo uno di loro, fecero una faccia straordinariamente colpita quando gli disse che aveva lo sfratto e di lì a un mese nulla più casa. Essendo uno di loro, lo abbracciarono, invece che dargli solo la mano, quando lo condussero all'uscita perché stavano per chiudere. E gli regalarono la nuova agenda 2009 della banca. Che agenda bellissima, pensò fra sé e sé sfogliandola allo spazzino che la trovò nel bidone lì accanto. Una settimana dopo, senza più addosso le scarpe strette, né l'abito da matrimonio tornato in naftalina, rinunciò a un altro pranzo. E al solito mercato comprò... Non più sciarpa, ma passamontagna. E pistola giocattolo da un ambulante filippino. Si presentò alla solita vetrata. La scritta «Se uno di noi» gli apparve all'improvviso un'offesa. Entrò in banca. Nessuno lo guardava. Come fosse invisibile. Più che invisibile. Eppure era uno di loro. Calzò in testa il passamontagna. Gli stava stretto più che le scarpe. Tirò fuori la pistola. Giusto il tempo di notare che sembrava vera, prodigio degli ambulanti asiatici. E si avventò su uno sportello. Gridando, senza senso, con una forza che non sapeva più di avere. Scalciando come un mulo contro tutto e tutti. Disperatamente ridicolo. Disperatamente ultrasettantenne. Disperatamente disperato. Per difendere 23 metri quadri d'affitto. È un piatto di prosciutto 2 volte al mese. E quando, incomprensibilmente, la montagna di muscoli in divisa d'ordinanza ruggì esattamente come il Doberman suddetto. E colto all'improvviso da un furore militare, aprì il fuoco contro il terribile rapinatore. Il boato fu così forte che una vetrina andò in frantumi. Ed egli cadde a terra. Col passamontagna stretto in viso. Immobile. Fra i pezzi di vetro con su scritto «Sei uno di noi». Italia, Lager. La 24 ore perfettamente allineata lungo il fianco, posa eretta. Cravatta scura, pois, su un abito antracite, gemelli d'oro e polsini della camicia più che bianca canta. La Mercedes classe C. Decappottabile. Capace di sfrecciare oltre 160 come una scheggia razza accelerato della NASA su quei rettilini da Formula 1 straordinari, dritti come lame, fra Modena, Reggio, Parma e Piacenza, là dove la bassa padana è piatta, lunga, spianata, come una fetta stesa gigantesca di prosciutto, fatta apposta per tirare giù l'acceleratore e vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, a piacimento! Ormai aveva sviluppato un intuito non comune per tenere a mente l'uscita dei pendenti di ogni capannone e lì parcheggiava, esattamente lì. Verso il primo pomeriggio la nebbia fitta si sarebbe diradata almeno un po' e lei sarebbe comparsa, più che splendida, come un miraggio abbagliante, pronta a stamparsi in tutti gli sguardi di quelle truppe di manodopera. Soprattutto indiana. Che stivaloni ai piedi, per 8 ore al giorno più straordinari, governa le bestie. Lo chiamavano il signor Morte, e non per l'aspetto fisico, quello anzi era a posto. Un giovane slanciato, capelli scuri, fisico tonico scolpito, 16 ore settimanali di palestra in sala attrezzi, ineccepibile guardaroba di marca, modi di fare professionali ma cordiali. No! Lo chiamavano signor Morte perché in effetti nessuno ci pensa, ma in questa bassa padana di allevatori su larga scala tutto il business si regge unicamente, volenti o nolenti, sul verbo ammazzare. Ammazzare polli, ammazzare maiali, ammazzare vacche e via dicendo, senza tante fisime che il mondo dovrà pur mangiare. Il signor Morte era rappresentante commerciale di tutto ciò che comporta l'ammazzare, preservando, si capisce, l'ottimo stato delle carni della bestia soppressa. Sistemi di videocamera a circuito chiuso per controllare i recinti verso lo sgozzamento. Prelevatori meccanici a gancio per elevare bestie terrorizzate e scalcianti. Countdown informatici che scandiscono i 35 giorni di vita del pollo geneticamente modificato e al 35esimo giorno con squillo di sveglia lo girocciano automaticamente a un reparto soppressione. E divisori con palle idrauliche per separare gli appena morti dai futuri morti. Distributore di mangime per l'ultima cena prima del mattatoio. Cuffie insonorizzanti per gli operatori anche munite di frequenze radio affinché la manodopera, soprattutto indiana, possa sgozzare maiali e polli canticchiando l'ultimo successo di Tiziano Ferro, che l'amore come lo canta lui non c'è nessuno! Il signor Morte entrò quella mattina nello stabilimento con un senso addosso di elettrico entusiasmo. Era il giorno della sperimentazione del nuovo macchinario venduto a quel perfetto mattatoio d'avanguardia fra Reggiolo e Rolo. Numero di listino 65 bis. Nome di fabbrica Suinus 2000. Un rullo mastodontico con tapirulan a più corsie, capace di accogliere il bestiame, 40 capi, canalizzarlo e convogliarlo, poi al momento cruciale isolare il singolo maiale e sgozzarlo con un braccio robot snodabile munito di bisturi chirurgico, non senza che una botola automatica si aprisse a morte avvenuta, facendo ammassare le carcasse già sul camion Fiat predisposto al trasporto frigorifero Suinus 2000. Leonardiana! Mica l'angiolesca! Se il collado avesse funzionato, la mano d'opera, soprattutto indiana, sarebbe stata ridotta del 60%, calcoli alla mano. E d'altra parte la bassa padana guarda al futuro. Computerizzare su un espossibo. Suinus 2000! L'Enterprise dell'allevamento! I proprietari del... erano pronti, schierati tutti. Uno aveva portato perfino la moglie. Anche la mano d'opera, soprattutto indiana, era schierata per l'evento. Munita di turbante, stivaloni e guanti, avrebbe assistito alla prova, pronta a intervenire in caso rarissimo di contrattempi. Da un muro compatto di nebbia emerse dietro la Mercedes classe C un camion stipato di maiali urlanti. Erano i prescelti. L'autista marocchino allineò il portellone alla bocca di Suinus 2000. A quel punto il signor Morte diede il via. Un bramino indiano girò l'interruttore e fu lì che Suinus 2000 prese vita. Silenziosa, lineare. I primi maiali cominciarono a scorrere sul nastro, eccitatissimi come a Gardaland. Scattò un applauso come la scala. Le bestie si avvicinavano al diesire inutilmente scalcianti, mentre già Suinus 2000 predisponeva l'arto meccanico col bisturi scannatorio. E mentre i padroni scattavano foto col cellulare preparando il secondo applauso, ecco che un cane inatteso, imprevisto, emerso dalla nebbia, si avvicinò alla Mercedes classe C, trovando nella fiancata perfetta come gabinetto, prese a innaffiarla. copiosamente. Il signor Morte, per sua sfortuna, vide la scena. I neuroni si associarono, l'istinto vinse e gridò con tutta la voce che aveva ai corse. I proprietari non capirono, il chiasso dei maiali urlanti era apocalittico. La manodopera, soprattutto indiana, perse il controllo. Pensò a un guasto di su Ilus 2000. Il panico si diffuse. L'autista marocchino smise di addentare il suo panino. Il bramino girò l'interruttore. Il tapirulan si inchiodò. I maiali si incastrarono l'uno con l'altro. Altri tre della manodopera indiana salirono sul lastro. Come facevano 8 ore al giorno più gli straordinari? A governare le bestie impazzite. Ma il signor Morte, intanto, cacciato il cane innaffiatore, non appena vide su Inus 2000 ferma, terrorizzato, non ebbe il tempo di connettere. I neuroni si associarono. L'istinto vinse. Gridò con tutta la voce che aveva e corse fino al quattro comandi. Girò l'interruttore start, disegnato personalmente da un grafico di Singapore, e godè del riavvio dei motori, tirando un respiro di sollievo mentre i proprietari applaudivano di nuovo. E applaudivano talmente forte che nessuno di loro sentì le grida di quei tre della mano d'opera, soprattutto indiana. E il prodigioso tapirulan smistava verso il bisturi chirurgico predisposto per lo sgozzo. E applaudivano, applaudivano, perché nemmeno una goccia di sangue si vide. Tutto perfettamente sterile, disinfettato, tecnologico, al punto che su Inus 2000 si fermò da sola. Solo quando nel raccoglitore dei residui organici si incastrò fra le pale la stoffa aggrovigliata di un turbante. Panorama, tutta Udine, stesa là in fondo, le montagne nitide del Friuli, cielo azzurro da cartolina, le cime delle Alpi verso il confine come piramidi di roccia. La signora mostra i conti della ditta con una certa fierezza comprensibile, del resto i bracciali, numerosi ed oro puro, ci scommetto niente di finto, le ballano sul polso tintinnando contro l'orologio, orologio che guarda di frequente, il tempo è denaro, certo, mezza età, criniera felina, sguardo eroico, combattente, affronta il sole. L'azienda di famiglia è florida. Sì? Assolutamente inattivo. Il fatturato degli ultimi anni è in crescita. In aumento. Ricevo io personalmente gli ordini d'acquisto. Abbiamo una clientela che si estende sempre più. Vendiamo pacchetti completi. A quali prezzi? Noi garantiamo qualità eccellente a prezzi non bassi ma competitivi. A partire da? Dai 40.000 euro in su, chiavi in mano. Chiavi in mano? Senza optional, la cifra è quella. Ma ovviamente ognuno ha le sue specifiche richieste. In questo tipo di commercio gli optional contano, mi creda, moltissimo. Mi faccia un esempio per capire. Partiamo dal presupposto che noi serviamo le famiglie, marito, moglie, soprattutto con bambini piccoli. Nel caso di prole minorenne, facciamo affari straordinari. Perché? Se lei studia questi grafici, può vedere che noi veniamo contattati solo quando aumentano i beni da difendere, mi spiego? I beni? Di ogni tipo, soldi, casseforti, quadri da collezione, oppure figli, che sono la prima cosa da tutelare. Il nostro motto è: difendo ciò che amo, difendo ciò che è mio. Difendo da chi? Da chi mi insidia, da chi mi minaccia, da chi mi odia. Ecco, guardi il catalogo, l'idea è americana. Di base noi realizziamo al cliente in ogni tipo di casa speciali stanze segrete, blindate, a cui si accede solo con codici a 9 cifre. Un bunker? Il bunker! Era l'antenato! Oggi la tecnologia è oltre. Costruiamo in fibre di titanio, materiali militari da guerra scientifica. Una trincea in casa! Ma con ogni comfort le chiamiamo Security Room. Se la sua abitazione viene invasa, se il nemico fa irruzione nella sua proprietà privata, se il suo spazio vitale subisce un attacco, se le forze del male irrompono nel suo nido, lei può rintanarsi in pochi secondi in questi locali e rimanerci per giorni interi con le cose e le persone che ama al sicuro. E se in attesa delle volanti vuole comunicare con i nemici, c'è un sistema di microfoni in filo di fusione. La sua voce può essere tradotta simultaneamente dal computer in arabo e in slavo. Si può scegliere cliccando. I suoi nemici non hanno alcuna possibilità di entrare. Le nostre stanze sono resistenti perfino al tritolo. Ciononostante, se il nemico che vi ha invaso si illude di trovarvi impreparati, se quella che si scatena in casa vostra è un'offensiva a tutti gli effetti, allora esiste un menu di accessori per la difesa d'oltranza. Accessori? Se guerra vuoi, che guerra sia, Ogni stanza dispone di 2 fucili semplici e casse di munizioni. Ma si possono installare dei micromitragliatori a 5 metri dall'ingresso della security room. Fuoriescono dalle pareti e sono comandabili da un monitor nella stanza con una manopola joystick. Meccanismo semplicissimo, mi creda. Una comoda console. È verificato prove alla mano che anche una nonnetta ultra novantenne può comandare i mitragliatori seguendo sui monitor in diretta l'abbattimento pif dell'invasore. Nel bergamasco un ingegnere ci ha commissionato per il salotto una statua della Venere di Milo da cui fuoriesce a comando gas lacrimogeno. E un avvocato della Brianza ha optato per questi nuovi sensori laser collegati a una batteria di spray paralizzanti sperimentati in Vietnam. Localizzano il nemico mentre è ancora in casa vostra e puff, lo neutralizzano. E una coppia di brush ci ha richiesto un rifugio invulnerabile al 100% anche nella più estrema delle ipotesi. Che sarebbe? Allora, i rifugi hanno un impianto di ariazione. Se il vostro nemico vuole attaccarvi, in effetti può introdurre nei condotti del gas chimico, no? Per farvi uscire! Ma noi abbiamo un modello munito di respiratori antiattacco batteriologico. Le stanze sono munite di screen radioattivo e docce per la decontaminazione. E la richiesta più strana che avete avuto? Sulla villa di un imprenditore. Per i suoi sorveglianti armati volle 2 torrette di avvistamento nel parco, un cancello con mitra perforanti e una security room collegata all'elicottero per fuggire. E in questi casi chiaramente il prezzo sale molto. Certo. Ma la pace diventa totale, mi creda. Il sonno tranquillo. Ecco, guardi, confronti grafici. Italia for children. Il più bel giorno di tutta la mia vita, che mai me lo potrò dimenticare com'era bello. Fu quel giorno che il mio papà tornò a casa così contento che lui suonava il clacson giù fuori dalla terrazza. Lo suonava così forte, fortissimo, che mamma è uscita dal bagno e io me lo ricordo che disse: ora che gli è preso. Ma lui poi, papà, salì le scale, venne su, ci disse a tutti che lui da domani ci aveva il lavoro. Allora mamma cominciò anche lei a diventare felice come lui, che per festeggiare aveva portato la Coca-Cola e anche il pollo della Coppa, quello con le patate che non c'è nemmeno l'offerta. Io però mi ricordo che io invece no, io non ero subito felice e non volevo nemmeno festeggiare proprio nulla. E infatti non la bevevo la Coca-Cola col pollo della Coppa, perché non era la prima volta che lui, papà, diceva che lui da domani c'ha il lavoro, ma poi quello era un lavoro così così, non un lavoro vero, che durava poco pochissimo. E io non ci facevo a tempo a dire a scuola che lui c'aveva il lavoro e subito quel lavoro dovevo dire che non c'era più. E tutte le volte Maurizio Anelli della terza B, che loro c'hanno la merceria, ride e dice che io mi invento le cose e che lui, papà, il lavoro vero non ce l'ha, perché il lavoro vero, lui, Maurizio Anelli, dice che è come la merceria, che sta sempre lì e non è che scappare. Ma quel giorno, che fu il più bello di tutta la mia vita, che mai me lo potrò dimenticare. Quel giorno papà disse che questa volta era lavoro di quelli che durano, non sempre, ma nemmeno poco. Perché questa volta ci ha messo la parola buona uno che a noi si conosce, che ha parlato con quelli che il lavoro ce l'hanno e lo danno agli altri. E poi infatti questa volta non solo lui da domani ci aveva il lavoro, ma c'era anche quella cosa che lui la chiama il contatto scritto, che me l'ha fatto vedere, che è un foglio normale come questo, scritto piccolissimo, ma libero. Su quel foglio c'è giurato che il lavoro dura non sempre, ma nemmeno poco. E poi oltre a darsi il lavoro si danno pure i soldi. Quando ho visto questo foglio che si chiama contatto, con su scritto che quello non è il lavoro come quelli di prima, io allora l'ho capito subito che questa volta Maurizio Anelli della terza B ride poco. E a papà gli ho detto che se c'è bisogno lui quel foglio me lo dà da portare alla scuola e io glielo faccio vedere, ma non tutto, solo lì dove c'è scritto non sempre ma nemmeno poco, e poi che ci danno i soldi. Ma il momento in cui sono diventato ancora più felicissimo, in quel giorno che infatti poi è il più bello della mia vita, è quel momento che ho pensato che forse con quel contatto e ci danno pure i soldi per andare al mare a Termoli. E che Maurizio Anelli della terza B ci va sempre tutti gli anni, ma non che uno poi la sera torna a casa, proprio restandoci lì a dormire, e sulla merceria ci mettono il cartello chiuso con l'ombrellone, ma non piccolo, è grandissimo, che così la gente passa e sa che Maurizio Anelli è al mare e non torna la sera. Io allora gliel'ho subito chiesto a papà, perché se diceva sì, glielo disegnavo subito il cartello con l'ombrellone, che poi ce lo mettevo sulla porta del garage, ma non piccolo, è più grande che quello della merceria. E lui ha detto che ora non si può ancora dire, però dice che su quel contatto c'è pure scritto che quando il lavoro finisce, può darsi che non finisce, ma forse continua, e allora forse può darsi, ma non si sa, che gli fanno un foglio nuovo, ma come questo, dove c'è scritto che lui lavora un'altra volta come prima, non per sempre, ma nemmeno poco, e se continua, gli danno ancora i soldi come prima che finiva, e se gli danno i soldi, allora può darsi che noi si va 2 o 3 giorni a Termoli, restandoci a dormire, anche se non ci sia la merceria. Allora io sono diventato così tanto felicissimo che subito anche io bevevo la Coca-Cola col pollo della Coop, che te lo dà tantissime patatine, ed è per questo che non c'è l'offerta. Fratelli d'Italia, l'Italia fedeltà delle nostre civio se fin da la testa dove la vittoria li porta la chioma che sta che chiama di Roma Dio la creò Italia Circus. Fumatore perenne, forse da prima della scoperta del tabacco, i denti neri come pece, con sfumature pittoriche dal grigio al giallo, colorito olivastro, da carne arrostita per decenni sotto il sole, che sembrava ancora più scura sotto la catena d'oro che gli portava al collo. L'accento misto, piemontese, di chi un tempo fu calabrese, gli frusciava fra le pareti della bocca come una specie di continuo rosario, senza interruzione. Bassa statura, quasi un nano, piantato su quelle due gambette tozze velocissime, sempre in vena di tirar calci al muro, sport quest'ultimo che praticava in ogni dove, non prima di averci sputato contro, emblema perfetto dell'italico costume per cui il muro è di qualcuno, quindi non è mio. Il suo spettacolo viaggiante portava sui veicoli la targa Torino e lì stava parcheggiato nei mesi morti in un hangar dalle parti di Orbassano. 2 roulotte, 5 camion con rimorchio, un tendone smontabile con capienza 200 posti. Non molti, certo, ma sufficienti per campare. E dire che un tempo agli inizi faceva l'esaurito, sempre. Oggi è grassa se si riempie la penultima fila. Non lo chiamate circo, ripeteva urlando a chi osava chiedere a che ora inizia il circo. E in effetti il suo non era un circo, bensì, come lui diceva, un'esposizione di meraviglie. In uno dei 5 camion trasportava infatti dal 1975 o giù di lì grandi vasche 6x6 con un polpo gigante delle Bermuda, un'anaconda mezza tramortita, 2 pitoni in crisi depressiva e infine un caimano vecchissimo la cui entrata in scena ormai sembrava la reclame di un ospizio. Proteste del pubblico sempre più frequenti. Non solo per lo strazio geriatrico del caimano, non solo perché la tremenda piovra era incapace di far male a una mosca, non solo perché i due serpenti giacevano in eterno letargo, quello che mancava allo show era più che sicuro, era una bella ragazza, una domatrice, un'amazzone, che sfidando le fiere si calasse nella vasca della piovra e poi giocasse coi pitoni e poi si avvolgesse nell'anaconda e poi spalancasse le fauci del caimano a cui nessuno pagava la dentiera e poi ci ficcasse magari dentro la testa e poi... Ah, poi aveva in serbo per lei un numero speciale, ma sì, meraviglioso, per il quale aveva dato fondo al portafogli, rivolgendosi a certi suoi amici di Vercelli che importavano clandestinamente bestie strane di ogni tipo dall'Oriente e America Latina. Gli avevano fatto vedere il catalogo, scegli tu, dromedari, tigri siberiane, pinguini, di più, mi ci vuole di più, otarie, orsi bianchi, canguri, di più, voglio di più, oranghi, cobra, iguana, varani, di più, voglio di più... E alla pagina 34 del catalogo trovò il suo nuovo numero speciale. Gli amici di Vercelli intascarono, in meno che un mese eseguirono. Un nuovo camion misterioso si aggiunse così alla carovana. Proibito entrare, proibito guardare. A quel punto sì, che sarebbe andato su tutti i giornali e a piena pagina. Il tentativo di trovare la sua star l'aveva fatto, ma nessun cronometro alla mano resisteva per più di 10 minuti. Fuggivano fra urla e risate a seconda del carattere, appena gli spiegava che cos'era la nuova attrazione. E di lì a poco nessuna più rispose all'annuncio pubblicato ogni domenica su tutti i giornali del Piemonte. AAA, cercasi talentuosa da lanciare come star, garantita vasta risonanza, congrua paga. La catastrofe era imminente. I creditori, passati alla fase delle carte legali. Una mattina però, ecco che si presenta una ragazza, pardon, ragazzina, forse 16 anni a dargliene di più, decisamente bionda, decisamente pallida, accento dell'est. Porta in mano l'annuncio ritagliato, sottolineato, cerchiato, sulla paga non fa parola. Spiega alla meno peggio che lei è un'artista, è venuta in Italia perché l'Italia è la terra degli artisti, l'ha visto in televisione e sulla rete italiana, tutte quelle come lei in Italia fanno successo, si lanciano, fanno soldi, tutti poi le cercano e sposano i calciatori, la ragazza, pardon, l'artista è subito ingaggiata e ringrazia il suo nuovo direttore abbracciandolo, le lacrime agli occhi, chissà, se lo avrebbe ringraziato lo stesso, se avesse mostrato anche a lei, come le altre, il super numero speciale, quello che avrebbe dato a tutti e due paginate di gloria sui giornali. Preferì, chissà perché, riservarle la sorpresa all'ultimo. Mentre la sua showgirl di Tirana si allenava a scendere nella vasca della piovra, il signor capo girò tutta Torino per ore su una Fiat Panda armata di megafono e ci mise tutto il fiato per lanciare il super numero speciale, la meraviglia delle meraviglie che tutti, grandi e piccoli, dovevano ammirare. Il tendone si riempì quella sera fino all'ultimo millimetro e di più. Una folla mai vista, nonostante il biglietto maggiorato, si fece silenzio. Un riflettore color blu cobalto illuminò sul fondo, sul trampolino, una futura showgirl di Tirana. Sotto di lei una vasca coperta, pronta da svelare appena il tamburo avesse smesso di rullare. E mentre tutti trattenevano il fiato, compreso il caimano che quasi cieco non riusciva a vedere, la futura showgirl di Tirana spiccò. Il suo salto si librò nell'aria, nel lunghissimo di tutti i presenti, proprio mentre la vasca si illuminava sotto di lei a giorno, pronta ad accoglierla come un abbraccio fra i 15 nuovissimi piragna, immigrati come lei, clandestini come lei, stranieri come lei, nel bellissimo paese dove tutto è spettacolo e si diventa star. Il giorno dopo, la foto di una futura showgirl di Tirana, galleggiante in una grande macchia rossa, regnava a piena pagina su tutti i giornali. 5, 4, 3, 2, 1. Italia Apocalypse. L'esplosione è fortissima. Devastante. Un boato di portata eccezionale. All'improvviso. Un boato sacrosanto. Rombo cui segue rimbombo. Uno schianto. E poi? Per lunghi, lunghissimi secondi. L'eco resta in sospeso. Così. Nell'aria. Come una scia. Rimbalzando. Fra le montagne. L'eco. Sarà che quassù, sulla montagna di Corre Cerbo, in questo lembo arrampicato di Sardegna, il silenzio ci regna sovrano sempre. Sarà per queste rocce nude, grosse, grezze, grigie, disseminate fra i lecci e i corbezzoli, così esposte, così buttate, in questo lembo arrampicato di Sardegna, senza nemmeno l'ombra di un riparo. Senza traccia di quei vigneti che in lungo e in largo coprono le colline, più giù, verso i paesi, a Petras, De Foghe, Filapuzzo. Quassù no, quassù sulla montagna di Corre Cerbo non si incontra anima viva fra le rocce, solo bestie e vento e bestie. Bestie, sì, le capre di Zio Pino, che quassù ci ha vissuto fino a 109 anni, dormendo nella sua casupola accanto all'ovile, e che di andare a stare giù al paese non ne ha voluto mai sapere. Sta quassù, Zio Pino, per andare una volta ogni tanto al paese, ha una moto Ape Piaggio, immatricolata nel 76, color verde pistacchio, senza uno sportello. Ma gli sta bene così a Zio Pino? Non chiede di più, Zio Pino. Basta e avanza l'ape a Zio Pino. Nella casupola di Zio Pino poca roba. Un letto, un paio di sedie, un tavolaccio inchiodato da Zio Pino, quattro foto incorniciate alla parete. Zio Pino da bambino, Zio Pino al matrimonio, Zio Pino con le capre, Zio Pino con Enrico Berlinguer. La cucina in ferro e ghisa, sulla destra un po' annerita. Legna per il camino, quella sì, tanta, che certe volte qui a Corre Cerbo, anche in piena estate, la mattina all'alba, a Zio Pino gli fa un po' freddo. Tiene appeso un calendario, Zio Pino. Di quelli con i giorni che si strappano ogni mattina. Si strappa il giorno e sa cartocce via a mungere le capre. Anche oggi come ieri, come domani. Si strappa via il giorno e sa cartocce via a mungere le capre. Anche oggi come ieri, come domani. Si strappa via il giorno e sa cartocce via a mungere le capre. Anche oggi come ieri, come domani. Sono 109 anni che Zio Pino strappa l'alba ai calendari e riesce a mungere le capre. Mette in testa il berretto, sempre quello, appeso al chiodo accanto alla porta. Se c'è il freddo ripara dal freddo, se c'è il sole ripara dal sole, comunque sempre quello. Si prende il berretto, si infila in testa e via a mungere le capre. Zio Pino le chiama tutte per nome le sue 100 capre. Ogni mattina le conta e saluta una per una mentre le fa uscire a coppie dallo steccato del recinto. Sa rugia, sa groga, sa sori, sa bubida, sa assurda, sa unga, sa beccia, sa zintola, sa bacca, sa teula, sa zuezola, sa pizzina, sa perda, sa ollasta, sa zulfura, sa spiga, sa strinta, sa bigra, sa benta, sa bizzina, sa cucura, sa launeda, sa misa, sa zipira, sa xina, sa iaia, sa vasina, sa brebei, sa bona, sa buca, sa craba, sa casu, sa cibraso, sa cibuta, sa caboru, sa conca, sa frastima, sa zucchera, sa piricocca, sa burumbala, sa punza, sa sabata, sa mincia, sa roba. L'esplosione è fortissima. Assordante. Uno scoppio di portata eccezionale. Proprio mentre Zio Pino conta le capre. Fa tremare gli alberi come fossero cespugli. Una scossa di terremoto. Di più. All'improvviso. Un frastuono da apocalisse. Proprio mentre Zio Pino conta le capre. Ma poco non cade, Zio Pino. Alza gli occhi, Zio Pino. Scruta intorno, Zio Pino. E vede uno strano fatto, Zio Pino. Saranno 300 metri di distanza. La colonna di fumo è altissima. Brucia tutto laggiù. Mai si è vista una cosa così a Corre Cerbo. Pensa, Zio Pino. Lo sa bene lui che da 109 anni tutte le mattine strappa i calendari e via, mugiora le capre. In quel momento un fischio acutissimo squarcia tutto il cielo sopra Corre Cerbo. Si tappa gli orecchi, Zio Pino. Guarda in alto, Zio Pino. E spalanca gli occhi, Zio Pino. Perché vede un fatto proprio senza precedenti, Zio Pino. Un missile! Modello Falcon 79K900. Aeronautica! Militare! Italiana! Ultratecnologico! Lasciare il fuoco! E dalla vicina base missilistica di Salto di Quirra! Schizza! Velocissimo! Su Corre Cerbo! E giù! Picchiata! Esplode! A 200 metri di distanza! L'esplosione! Fortissimo! Le capre impazzite! Zio Pino! Terrorizzato! Il grigio si disperde! Panico! Sa perla, sa olasta! Panico! Sa cucura, sa launeda! Panico! Sa zulfura, sa spiga! Panico! Ma ecco! Un altro fischio! Un altro missile! Modello Tuareg 54R16! Aeronautica! Militare! Italiana! Ultratecnologico! Computerizzato! Dalla vicina base missilistica di Salto di Quirra! Fuoco, amico! Si tappa gli orecchi, Zio Pino! Guarda in alto, Zio Pino! E giù, e giù, giù, giù, giù! Picchiata! Esplode! Sulle rocce e gli arbusti! Fumo dappertutto! Le capre scappano! In ogni direzione! Sa cavoru, sa conca! Panico! Sa sori, sa pupida! Panico! Le chiama, Zio Pino! Le rincorre, Zio Pino! Sa frastima, sa zucchero! Panico! Sa cibraso, sa cibuda! Panico! Quando un altro missile! Modello Raptor 61K70! Aeronautica! Militare! Italiana! In fase di collaudo! Dalla vicina base missilistica di Salto di Quirra! E giù, e giù, giù, giù, giù, giù! Impicchiata! Esplode! Le capre si nascondono! In cerca disperata di un rifugio antiaereo! Sa sorda, sa unga! Panico! Sa vasina, sa bremei! Panico! Decide di cercare aiuto, Zio Pino! Monta sopra la sua moto ape, Zio Pino! Mette in moto, Zio Pino! Mentre altri due missili! Modello Tiger 17Y432! Aeronautica! Militare! Italiana! Sfrecciano! Dalla vicina base missilistica di Salto di Quirra! E giù, e giù, giù, giù, giù, giù, giù! Impicchiata! Sorvolando le capre di Zio Pino! E la moto ape con Zio Pino! Guarda tecnologica! Evitano la casupola di Zio Pino! Guarda scientifica! Ed esplodono fra i lecci corbezzoli! Fugge sulla moto ape verde pistacchio del 76, Zio Pino, gridando! Isus mia mamma, sas cabras! Letteralmente! Mi mandano le capre! Isus mia mamma, sas cabras! Isus mia mamma, sas cabras! Formali scuse sono state avanzate per i missili fuori controllo. L'accidentale bombardamento missilistico dell'ovile di Zio Pino è proseguito per alcuni lunghissimi minuti, concludendosi fortunatamente senza vittime, né fra i civili né fra gli ovini. 1, 2, 3, 4. classe testa dell'elmo di Scipio, yeah. Si è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le forga la chioma. Che scava di Roma, il dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Get down. Italia Disneyland. Italia Disneyland. Due tecnici si danno un'occhiata fra di loro. Qui in giro sembra tutto a posto. L'ultimo sguardo d'insieme. Non c'è che dire. Perfetto. Ed hanno ragione. Assolutamente perfetto. Perché Dio, sei incantevole questo angolo di Appennino toscano. Sembra uno di quei boschi di Walt Disney. Gli uccellini cinguettano. Il sole si infila fra i rami. Chip e Chop. Eccoli là, ciao. Fanno capolino da un tronco. Il re dei Tobi, nemici e amici scorrazzano fra i fiorellini. I nani di Biancaneve tornano a casa dalla miniera. Ciao Pisolo. Ciao Brontolo. Ciao Mammolo. Fate i bravi, eh. Non c'è che dire, perfetto. L'acqua del torrente che gorgoglia giù dai massi. Zampilla. Salta. Scorre. Il verde degli alberi. Le foglie sui rami. Il muschio intorno ai tronchi. È la foresta di Sherwood. Walt Disney l'ha disegnata per Robin Hood e Little John. Tutto è pronto per il grande giorno. La commissione di verifica sta per arrivare. Loro li aspettano. Risalgono fino a quassù tutta la valle del torrente Garza. Analisi dell'impatto ambientale. Come se non si vedesse. Infatti lo vedranno e come. Che il torrente è sano, come il pesciolino Nemo. Anzi, mai stato forse così bene. Ora che la neve su in Mugello si comincia a sciogliere, fa verde tutta la valle giù verso Firenze. Venga pure la commissione, qui, dove le fatine di Peter Pan trillano tra i fiori. Dopo una mezz'ora, la jeep fuori strada della commissione di verifica sbuca arrampicandosi con le sue quattro ruote motrici. Ruggisce il leone come Simba nel Re Leone. Ci siamo. I tecnici fanno cenno di avanzare. E c'è una radura perfetta per la jeep. È lì, è proprio sul torrente dove Pocahontas va in canoa. Non c'è che dire, perfetta. Passerotti e canarini osservano dai rami. Un soffio di vento pettina l'erba. Il cerbiatto Bambi sbatte le ciglia. Dalla jeep scendono in quattro. Scattano foto in gran quantità. Prendono appunti. Con un loro apparecchio misurano l'acqua come fosse sangue. Annotano le cifre su un tabulato. Poi il verdetto scientificamente esatto. Anche qui è tutto nella norma. Sorrisi. Ma che sulla spalla. Sospiri di sollievo. Scoiattoli cantano sui rami. Hakuna Matata. Il sole è già in alto. Ha superato le cime degli alberi e si riflette sull'acqua. Brilla come l'oro. Walt Disney si attiene molto ai finali. È lì che dà il meglio. La jeep fa inversione di marcia sulla radura. Tutti a bordo. Si torna a Firenze. Mission on più fan. Il paradiso è intatto. La natura incontaminata. Anche qui è tutto nella norma. Winnie the Pooh e gli altri amichetti possono vivere in pace. Anche qui è tutto nella norma. La jeep se ne va. Coda fratello orso, facciamo quella zampetta. Scendendo giù a valle, la jeep incrocia sul sentiero un giovane barbuto che risale il fiume. Ha 40 anni e una camicia ad adi. Porta con sé un cavalletto da pittore, una tela nuova, pennelli, tinte. E via su per il bosco, alla ricerca di un paesaggio. Bel paesaggio, ma sì, qui è pieno da incorniciare. Se respira pieni polmoni e continua a camminare fra gli arbusti e cespugli del libro della giungla. Ecco, qui potrei fermarmi a dipingere. Qui? Sì. Ma certo! Il giovane barbuto dà uno sguardo d'insieme. Non c'è che dire. Perfetto! Sale su un grande masso. Quello della spada nella roccia. Apre il cavalletto. Stende la tela. Monta lo sgabello. Prepara i colori. Sceglie i pennelli. Che si può chiedere di più? C'è il manto dell'erba. C'è la luce del sole. C'è il verde sui rami. C'è il torrente che scorre. E questo silenzio così totale, così... Silenzio? Perché ora, all'improvviso, voglio dire, ad un tratto, il silenzio gli sembra come un imbuto? Un gorgo, una voragine, un aspirapolvere che si è inghiottito tutto. Insomma, perché Walt Disney ha tolto l'audio? Il pittore si alza in piedi. Non c'è che lui, un oceano di silenzio con una barba in mezzo. Si guarda intorno. Non c'è che dire, perfetto. Non manca nulla. Nulla di nulla. C'è il manto dell'erba. C'è la luce del sole. C'è il verde sui rami. C'è il... Cavolo, mi è sparito il torrente. Era qui un attimo fa, dove è andato? Eppure, non c'è proprio, non si vede. Scomparso, come se qualcuno avesse chiuso un rubinetto. Perché Walt Disney ha tagliato l'acqua? Il giovane barbuto non se lo spiega. E la cosa lo infastidisce non poco. Anche perché se decidi di dipingere la riva di un torrente, non è secondario che d'un botto così, puff, ti sparisca il torrente. Ed è tanta, ma tanta la rabbia che il pittore tira forte un calcio per terra. Ma così forte, tanto forte che... Cavolo! Sotto i suoi piedi! Davanti ai suoi occhi! Prodigio dei cartoni animati Buonavista! Un rettangolo esatto di 2 metri quadri d'erba, puff, si alza in aria! Come il tappeto volante di Aladdin! Come gli orecchi di Dumbo! E ricadi a terra! Piombando giù! Nel silenzio! Con un tonfo! Su un terriccio secco, arido, prosciugato! Cavolo! Tutto intorno a quel rettangolo mancante, l'erba sfavilla! Ma basta alzare un lembo e viene via! Su, a pezzi! Sotto! Terra bruciata! Dura! Spaccata di crepe! Morta! Cavolo! L'erba è stesa a strisce! Cavolo! Il torrente è scomparso! Dando un'occhiata più da vicino, forse... Perfino le foglie! Le foglie! Di plastica! Stanno attaccate ai rami col filo di ferro! E il muschio è sintetico! Cavolo! La brina è una schiuma! Cavolo! Il giovane barbuto si guarda intorno! Desolato come Lily e vagabondo! Non richiude nemmeno il cavalletto! Cammina verso nord dentro l'alveo... Vuoto! ...del torrente e gli bastano 300 metri per svoltare dietro un costone di roccia e... Non più una valle... Un canyon! Tronchi morti di conifere! Querce in agonia! Cadavere di pesci! Mosche! Polvere! Cenere! Ruggine! Barili d'olio! Asfalto! Catrame! Pece! Dume, tralici di cemento! Prefabbricati! Vasche di morchia! Serbaresine! Sacchi! Casse! Carriole! Piloni! Cisterne! Quadri elettrici! Caterpillar! Rivelle! Un po' più avanti... 2 cartelli. Uno gigantesco, sorretto da assi di legno, l'altro piccolo e sbilenco, mezzo storto. Su quello enorme campeggia la scritta Cantiere Treno Alta Velocità Tratta Firenze-Bologna. Sull'altro cartello, piantato lì dove un tempo era il fiume, zona di pesca, aria protetta. Cavolo! Le persiane della stanza chiuse. Sotto i canti della processione le grida non si sentono. Le mani grondanti di sangue, rosso, come i pomodori, quelli maturi, che ti sembra che scoppino quando si buttano a bollire giù nel calderone. Le persiane della stanza chiuse. I ferri, le lame, il coltello, buttate lì sul pavimento insieme ai cenci rossi, sfatti. S'asciuga il sudore col braccio, fradicia, lercia, di sangue, di sudore, bava, e poi di chissà cos'altro la vecchia calogera spaduzzo. Facendo alla ragazza di arreggersi alla testiera del letto, forte, più forte, mordere la cintura che le ha messo in bocca fra i denti, forte, più forte, e se vuole ma sì, che urli pure, che tanto la casa è isolata e la processione forte, più forte, si sente da qua giù, copre tutto, ci manca poco, ci manca poco, ci manca poco, tanto, a finire il trovacchio, che la vecchia calogera spaduzzo lo farebbe pure a occhi chiusi. Lei, che da 50 anni la vengono a cercare, certe volte magari anche da Catania, come oggi, ora, questa ragazzina venuta fino qui, portata da un'amica sua con la Toyota Yaris ultimo modello, parcheggiata ora lì fuori, che così al ritorno guida lei l'amica per precauzione. Il sangue ha verniciato le lenzuola bianche ed è colato come lava sui merletti. Nel mezzo del letto ha fatto una pozza. Lì, sotto le cosce nude di quella ragazzina, i blue jeans lasciati sulla sedia. Le caviglie gliele ha dovute legare con la corda alla spalliera, che sennò non ci stava ferma. Le scarpe Timberland le ha lasciate accanto alla porta. In mano ha chiesto di poter stringere il cellulare Nokia Trial Band, regalo di compleanno 16 anni 10 giorni fa. La vecchia calogero spaduzzo. La chiede sempre a tutte lei l'età. Che così alle ragazzine poi di soldi gliene chiede meno. Ma come gli verrebbe voglia di prenderle a schiaffe, tutte, a calci nel culo quelle ragazzine, con la pelle chiara, la collanina con l'orsetto, che vogliono tutto, vogliono subito fare le donne, fare l'esperienza, e poi tanto è lì che finiscono, lì, con le persiane chiuse, lì, sdraiate, cosce aperte, legate con la corda alla spalliera, a insudiciare di sangue il letto coi merletti di calogero spaduzzo, che con gli spilloni e ferri tira fuori tutto, poi fa un fagotto nel sacco nero di plastica e butta tutto giù via nell'immondizia. Ora però ferma con le mani, che ci manca poco a finire il travaglio. Dietro la testiera del letto, appesi al muro come guardiani, San Francesco, Sant'Antonio e Santa Rosalia, schierati, vegliano, scrutano, spiano, con gli occhi ben aperti, fissi con lo sguardo su chi sta sdraiata, mentre lei armeggia nel rosso coi ferri e li brucia sull'alcol in un pentolino. Ah, che lei lo sa come si fa a non far venire poi domani l'infezione, eh? L'infezione, che vuoi vedere, tocca comunque andare in ospedale. E allora che è servito fare tutto di nascosto, eh? Lì, dentro, con le persone chiuse, che sparisca tutto, con le persone chiuse, che se per caso viene fuori poi ho finita. Ora però zitta, che ci manca poco a finire il travaglio. Asciuga il sangue, afferra uno spillone in fila, dentro, giù, poi sfonda e tira e bagna, e cuci, e bagna, e cuci, e ferma il sangue, e ferma il sangue, e ferma il sangue, e ferma il sangue, e ferma il sangue, e ferma il sangue, e ferma il sangue, e ferma il sangue. 400 euro, facciamo 3,50 in contanti e non se ne parli più. Derby. In Italia ci sono molti modi per provare il brivido del rischio. Si può salire sulle montagne russe. Ma in questo caso generalmente si esce vivi. Si può attraversare un ponte di corda, oppure gettarsi con un elastico da un ponte. Ma anche in questi casi non ci si rimette la pelle. I veri duri, quelli che disprezzano il pericolo e non arretrano di un solo passo, quelli che vogliono guardare in faccia la morte, quelli che possiedono il vero dono del coraggio, in Italia fanno gli arbitri di calcio nei tornei dilettanti. Terra di colline, vigneti e paesaggi da pittura. La terra di San Francesco e il paverello d'Assisi. Villette unifamiliari, pergolato in giardino, orci di terracotta con edere vasi di gerani color lilla. Sui tappeti davanti all'ingresso sta scritto benvenuto. Sabato pomeriggio ore 16 si scontrano il Trasimeno e il Mogliano. Stadio locale, spalti gremiti, tiepido clima primaverile. Genitori dei giocatori amici, dei giocatori compagni di classe dei giocatori. Il parco locale è uomo mite. La nonna semi paralizzata in carrozzina dell'attaccante Martuscello. Un bambino vestito di giallo mangia una coppetta di gelato puffo e pistacchio. Il maresciallo dei carabinieri assiste sonnecchiando. Cronaca, sintetica dell'incontro. Schierata in campo con due sole punte dal mister Bucciarello, reduce dalla sconfitta col Gualdo Tadino, la Trasimeno Calcio non ha a disposizione Paccheri e dall'attaccante Martuscello a mezzo servizio. Il Moiano di mister Gragnoli, da oggi sponsorizzato dalla trattoria Mignone, presenta la stessa formazione con cui ha steso il Col Fiorito, con l'eccezione di Puccioli sostituito col numero 13 da Ferrazzuoli. Arbitra il signor Moreno Vincenzini di Gubbio, subito accolto coi fischi dal pubblico per i tre rigori che l'anno scorso negò i padroni di casa. Da queste parti si sa la memoria è lunga. Palla al centro, calcio d'inizio. La partita inizialmente volge a favore della Trasimeno, sebbene le occasioni agli ospiti non manchino. Al terzo minuto Giarossi non finalizza un'invitante palla in aria servita lì da Moffo. Una manciata di minuti più tardi Biscarrino del Moiano stende a terra Parrini con una gomitata non ravvisata dall'arbitro Moreno Vincenzini di Gubbio, che fra i fischi fa proseguire l'incontro. Al ventesimo del primo tempo il Moiano passa in vantaggio con un gol di Tortora, giocatore da venire, 15 presenze nel campionato juniore, si ragazzo si farà. Al 36esimo Martuscello fa sognare la Trasimeno risalendo con piede alato la fascia laterale, dribblando Biscarrino che invano chiama Bucci, tenta il cross da fuori area, sbaglia ma recupera, con una finta inganna il portierone del Moiano, gol, lo stadio in tripudio. Ma l'arbitro signor Moreno Vincenzini di Gubbio annulla l'azione per fuorigioco subissato dai fischi del pubblico locale. Protesta dalla panchina il mister Bucciarello, ma il signor Vincenzini è irremovibile. Protesta Martuscello a nome della Trasimeno, ma viene ammonito dal signor Vincenzini, non giocherà sabato prossimo col Foligno. La nonna semi paralizzata dall'ammonito insorge. Il parroco locale urla una frase non propriamente cattolica. Il maresciallo dei carabinieri dorme della grossa. Viene alzato in curva uno striscione Vincenzini a seguire epiteti vari. Ma l'arbitro fa segno di proseguire il primo tempo. È il momento di reagire per la Trasimeno, che tuttavia arranca e si fa cogliere il contropiede da Cannizzaro del Moiano, che proveniente dalla giovanile di Spoleto non ha difficoltà a navigare il campo nell'area delle Custrie e segna il 2-0. Festeggiano i ragazzi del Moiano, mugugnano i tifosi della Trasimeno. Viene alzato in curva uno striscione Vincenzini, una morte secca. L'azione riprende. Moiano attacca. La Trasimeno arretrata in difesa. Al 45esimo l'arbitro signor Moreno Vincenzini di Gubbio manda le squadre negli spogliatoi, ma sul momento di uscire di campo viene aggredito da un bambino vestito di giallo. Il maresciallo dei carabinieri dorme della grossa. La ripresa inizia con un infortunio a pizzone della Trasimeno che riporta uno stinco seriamente contuso e nonostante tutto prosegue la partita. Bravo Diego, forza ragazzi. Dopo una manciata di minuti Pizzone si rifà del colpo subito e realizza un gran gol di testa che consente alla Trasimeno di tornare in partita. Ma l'arbitro signor Moreno Vincenzini di Gubbio annulla anche questo gol dai padroni di casa. Il pubblico preme per invadere il campo, qualcuno in tribuna stacca i seggiolini e mira invano sul cranio del direttore di gara. Viene alzato in curva uno striscione Vincenzini, ti aspettiamo fuori. Protesta dalla panchina il mister Bucciarello. Un bambino vestito di giallo entra in campo correndo e morde a uno stinco l'arbitro Iguvino, incitato dai cori dei lacustri mentre i sanitari soccorrono sugli spalti il parco locale collassato. L'incontro riprende. Al 25esimo della ripresa il portierone biancorosso si arrende a Lucrezzi del Moiano, che tuttavia commette ben due falli di mano. Ma l'arbitro signor Moreno Vincenzini di Gubbio non concede il calcio di rigore e segna il 3-0 per il Moiano. Lo stadio esplode, viene alzato in curva uno striscione e Vincenzini non torna a casa. Petardi e Mortaretti piavano accesi sull'arbitro Vincenzini. I giocatori della Trasimeno si rivoltano. Inseguono il direttore di gara. Il pubblico distrugge le recinzioni. Qualcuno grida fermatevi contro la legge. Qualcuno risponde chi se ne frega. E tutti gli danno retta. Gli danno retta perché il maresciallo dei carabinieri. L'arbitro Moreno Vincenzini di Gubbio, memore di un precedente linciaggio a Umbertide, fissa con sguardo terrorizzato la furia umana che invade il perimetro di gioco. Si attacca al fischietto e fischia, fischia, fischia come una locomotiva sul binario morto. Ma è del tutto inutile perché ormai genitori, nonne e zia hanno fatto invasione di campo, furibondi riconoscibili con bandane intorno al capo, marciano come i Black Bloc a Porto Alegre, ferocemente guidati da un bambino vestito di giallo e dal parroco locale che urla inni pagani. Una folla di 400 persone, non trattenuta dai tifosi del Moiano che sono già a cena alla trattoria Mignone, assedia l'arbitro signor Moreno Vincenzini di Gubbio, che sempre fischiando trova rifugio nel capanno attrezzi dei giardinieri. Ma ecco che un bambino vestito di giallo viene issato dalla nonna sul tetto del capanno. Qualcuno grida lo scalpo, lo scalpo. Mentre dall'interno del capanno l'arbitro Moreno Vincenzini di Gubbio, che nel frattempo ha smesso di fischiare, ora propone gridando una conferenza di pace come Napoleone Bonaparte a Waterloo. Ma è del tutto inutile perché ormai il parroco locale si avventa sul capanno con un piede di porco. La folla grida vittoria o morte. Il maresciallo dei carabinieri batte il tempo su un tamburo come ha visto fare al cinema in Braveheart. E mentre l'arbitro Moreno Vincenzini di Gubbio inutilmente si appella al tribunale dell'AIA, viene sferrato il decisivo attacco. La nonna semi paralizzata dall'attaccante Martuscello viene usata come ariete. Un bambino vestito di giallo getta candelotti fumogeni. Il parroco locale aizza i combattenti come l'ultimo dei moicani. Mamme e zie dei giocatori si slanciano furiose. Un regista locale passa per caso e progetta le baccanti. Il capanno attrezzi si sfalda come una scatola di cartone. L'arbitro signor Moreno Vincenzini di Gubbio inutilmente tenta di opporre resistenza con un decespugliatore. Assalito dalle avanguardie anarchiche viene disarmato e dato in pasto alle belve lacustri. Collezionerà in 13 secondi 26 fratture multiple. Trasferito e nel soccorso all'ospedale di Perugia ne avrà per 5 mesi. Partita sospesa per rissa. Sabato prossimo trasferta a Foligno, arbitra il signor Fosco Guerini di Todi. Palla al centro.